Essere e benessere. Di Nicoletta Carbone. Ehi, guardate che cosa ho trovato di sotto. Oh, oh, si alzi! Si alzi, svelto! Si alzi! L'ho appena saputo. Che cos'hai? Calcoli renali. Vede, di solito noi cerchiamo di frantumarli con delle onde sonore, ma i suoi purtroppo sono troppo vicini alla vescica. Quindi ora o aspettiamo che escano da soli o risaliamo lungo l'uretra e poi... Che cosa? No, no, no, no. Qui non risalirà mai niente, chiaro? Risalire non si può. E poi che cos'è l'uretra? E pensare che per evitare tutto questo sarebbe bastato un limone. Incredibile ma vero. Buongiorno a voi da Nicoletta e buongiorno al professor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e un particolare alla nostra conduttrice. Grazie professore. Allora, potremmo dire un limone al giorno leva il medico di torno. E non è una novità, perché la medicina popolare ha sfruttato le proprietà terapeutiche di questo frutto utilizzandolo come un vero e proprio armadietto farmaceutico casalingo per la cura e anche la prevenzione di molti disturbi. Insomma, ci aveva visto lungo, professore. Certo, ormai la medicina si basa molto sulle sostanze naturali, la chimica sta quasi per essere soppiantata proprio dalla ricerca sulle proprietà che hanno le cose che la natura ci dà. Il limone, per esempio, è uno di questi classici che sta avendo grande successo fra i ricercatori, proprio lo studio del Mario Negri di Bergamo ce lo dimostra. È uno studio in cui dimostra, ma lo sapevamo già, che un limone al giorno previene la formazione dei calcoli renali, un limone al giorno previene le infezioni delle vie urinarie, un limone al giorno ci dà un mare di vitamina C che ci difende dalle infezioni. Quindi, professor Battaglia, quanto a togliere il medico di torno, il limone se la gioca con la mela. Certo, tutte e due sono grandi player, grandi giocatori per la nostra salute. Professore, vogliamo dare delle indicazioni molto precise per chi soffre di calcoli renali? Tra l'altro l'estate è una stagione un po' a rischio. Lei ha detto un limone al giorno, è meglio assumerlo al mattino, si diluisce con l'acqua puro, come si può assumere? Ma quello che dico sempre alle persone che me lo chiedono, io vivo in una regione in cui il limone è di casa, lo vedo dalla finestra del mio studio, lo vedo quando cammino e vengo in ospedale. In questo periodo tutti beviamo, tutti abbiamo sete, se noi ci versiamo in una bella brocca tutta l'acqua che ci servirà durante il giorno e due limoni, li mettiamo a fettine dentro quest'acqua e beviamo quest'acqua così gustosa, certamente facciamo solo del bene ai nostri reni, aumentiamo la nostra diuresi e facciamo sì che l'urina sia sempre diluita e non formi queste pietre. Fantastico, ma professor Battaglia, tutto questo limone non rischia di provocare acidità? Sì. È classico questo, però noi dobbiamo pensare cosa facciamo quando abbiamo pesantezza di stomaco, ci prepariamo il classico canarino con del limone e lo stomaco si lamenta spesso perché facciamo anche una vita un po' stressata e per ragioni tra di loro diverse, però a questo stomaco è meglio dedicargli un po' più di attenzione. Anche ogni tanto un semplice canarino. Grazie professor Battaglia per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi e buon lavoro. Che cosa facciamo se lo vediamo? Insomma, cosa vuoi capire guardandolo? A meno che, se Dio ci aiuta, non strangoli un passante. Non lo so, Sid, sto improvvisando. Beh, io dovrei essere a casa a lavorare alle mie magie. Ehi, perché non la prendi come una cosa che aggiunge emozione alla tua vita? Ehi, piccola, emozione nella mia vita è una cena senza bruciore di stomaco. E a proposito di stomaco, i suoi segnali sono acidità, bruciore, gonfiore. Lo stomaco si lamenta così. Ma perché si lamenta? Iniziare la settimana con me, ad occuparvi insieme ai nostri ospiti del nostro benessere. I messaggi, come sempre, al 349-238-6666. Non mi sto dimenticando, perché vedo che Laura Vanossi mi sta guardando, ma potete seguirci, come sempre, su Facebook e su Twitter. Qua in studio con me saluto la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, se lo stomaco fosse una persona, sarebbe una persona suscettibile. Se mangiamo troppo diventa pesante, se è vuoto si lamenta, se siamo stressati brucia, si infiamma e poi ha delle simpatie e delle antipatie spiccate. Esatto, diciamo che è un carattere un po' complesso. Sì. Allora, le simpatie sì, praticamente dipende dal cibo che noi mettiamo nello stomaco. Ha detto il professor Battaglia prima, dobbiamo curarlo un po' di più, perché ci sono alcuni alimenti che ovviamente lo stomaco gradisce, sono gli alimenti più leggeri, mentre quando lo stomaco è un po' più affaticato e diciamo verso le ore serali, riempire con dei cibi grassi e pesanti che fanno fatica ad essere smaltiti, questo può indurre proprio una pesantezza di stomaco che non fa dormire la notte, e da lì, dalla pesantezza, inizia il bruciore, che è questa sensazione di fiamma, proprio le persone te lo descrivono: non ho dormito tutta notte perché mi sembrava di avere un fuoco dietro al petto e in posizione quella centrale classica che tutti identificano come stomaco. E identificano in modo corretto? Identificano corretto, lei pensi. Ah, giusto. Sì, sì, ah. Sì. È comunemente si può chiamare anche il plesso solare, no? Mm. Il plesso è quella zona in cui vengono racchiuse le emozioni. Se poi noi ci rifacciamo a una cultura sanscrita, questo corrisponde a uno dei chakra, quindi a uno dei livelli di energia. Allora, il plesso solare è sì il crocevia, la zona dove vengono convogliate le emozioni. Anche gli anglosassoni parlano di guts, come avere stomaco, avere coraggio, oppure avere molto sentimento nel fare le cose. Quindi... Anche noi diciamo un uomo di pancia. Esatto. Esatto. Il limone ha stuzzicato i nostri ascoltatori che iniziano a scrivere al 349-238-6666. Un ascoltatore, Nicola, scrive: cara signora, forse sono io, il limone è alcalinizzante, non acidificante. Esatto. Esatto, e questo lo sapevamo, ma... Allora, il limone diciamo che viene identificato come elemento acido nel momento in cui è il sapore. Nel momento in cui viene introdotto nell'organismo, viene trasformato in una sostanza alcalina. Cosa vuol dire alcalina? Che aumenta il pH del nostro organismo. Ed è per questo che anche il professor Battaglia si rifaceva all'usanza di utilizzare il canarino per migliorare le capacità digestive, oppure alla capacità di aumentare le difese immunitarie, perché proprio il limone ha tutte queste caratteristiche, comprese il contenuto di vitamina C. Ora, se però si hanno delle lesioni, tipo delle erosioni o delle ulcere a livello dello stomaco, bisogna andare abbastanza cauti. Con la quantità di limone assunto. Ecco, il limone intacca lo smalto dei denti, punto interrogativo, ci chiede Loris. Parlavamo di un limone diluito nell'acqua non delle fette di limone morsi. Forse il signore fa riferimento al fatto che il reflusso acido, sì, quindi la malattia del reflusso gastroesofageo, può nel tempo erodere lo smalto, e quindi l'acido che proviene dallo stomaco, ma che contiene altre sostanze corrosive, può erodere lo smalto. E un altro ascoltatore mi scrive: ma il limone non ha anche effetti astringenti? Potrebbe essere un effetto collaterale o no, Ruggero? Allora, il limone preso in alte quantità è da sempre utilizzato nei momenti di disturbi intestinali. È chiaro che però ci sono determinate tradizioni, tipo quella ayurvedica, che consiglia al mattino un bel bicchiere d'acqua calda con poche gocce di limone, perché questo, oltre alle proprietà che abbiamo già descritto, stimola la peristalsi, quindi il movimento intestinale. Quando, ritorniamo al nostro stomaco, dottoressa Salvioli, quando noi diciamo ho mal di stomaco, lo diciamo in modo, intendiamo generico, tutta una serie di sintomi tra loro diversi. Ciascuno ha il mal di stomaco che sa o pensa di avere. In realtà può essere un peso, può essere il bruciore, può essere, a proposito di limone, una forte acidità, un crampo, un senso di oppressione. Sarebbe meglio essere un po' più precisi, e quindi invito i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa fa il loro stomaco, come si fa sentire, perché lo stomaco si fa sentire spesso, ha questa proprietà. Se non altro, ad esempio, si dilata un po', abbiamo questa sensazione di pancia gonfia che noi intendiamo come stomaco, in realtà magari non è proprio lui il responsabile, ma qualche cosa ci dice. Dottoressa, ci aiuti lei a identificare, allora, un po'? La prima cosa da dire è sempre chiedere alla persona: mi faccia vedere con la mano dove sente questo disturbo, perché come ha detto giustamente lei, Nicoletta, la pancia viene confusa con lo stomaco, e allora molto spesso dicono invece che la pancia lo stomaco. Lo stomaco, se è quella zona alta sotto lo sterno e sotto il diaframma, è il punto in cui possono essere tantissime le cause di disturbo, a partire da calcoli della colecisti, a partire da un problema proprio dello stomaco che poi viene irradiato dietro fra le scapole. A cintura, come? A cintura, ed alcune persone dicono proprio un dolore dietro le scapole, ma in realtà è lo stomaco che si è fatto sentire. Per cui è una zona molto delicata, e molte volte quando si hanno anche le cosiddette pugnalate allo stomaco, possono essere dei segni di reflusso gastroesofageo, quindi dell'acidità che dallo stomaco va in esofago, e questo sembra di avere praticamente un infarto, no? Un problema al cuore, perché è tutta quella zona che viene interessata, quindi certo, preoccupazione, stress, tutto. Dottoressa, serve anche capire, oltre il dove, il come e il quando. In pratica, oltre a localizzare il dolore, potremmo anche cercare di individuare i possibili fattori scatenanti, incluse anche le situazioni più a rischio, e anche la durata e il tipo di dolore, come sottolineava lei, l'eventuale irradiazione. Semplicemente potrebbe essere utile capire se il nostro stomaco si fa sentire con maggior frequenza prima o dopo i pasti. Esatto. O notte, in momenti insospettabili come la notte. Come la notte, la notte è un momento delicato, molto delicato. Pensi che, a parte quelli che hanno delle abitudini alimentari errate, come ho detto prima, andare a letto tardi con lo stomaco ancora pieno di cibi grassi, che quelli che affaticano molto la digestione, questo indubbiamente causano un problema che dura tutta la notte. Altre persone che invece sono ligie, seguono i consigli del proprio medico e vanno a letto 3 ore dopo l'assunzione del pasto, possano avere dei disturbi di acidità. Acidità che è abbastanza comune dal mezzanotte alle 3 di mattina, e questa acidità può svegliare la persona. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, volevo rappresentarmi la mia esperienza, abbastanza normale penso, però per me è stato un bel sollievo scoprire qual era l'elemento che mi creava questa acidità. Sì, e qual era? Il caffè. Il caffè. È frequente, dottoressa Salvioli? Sì, sì, è che molto spesso le persone sono abituate, soprattutto in Italia, siamo abituati a bere tanti caffè, il caffè è buono, uno tira l'altro, quindi arrivano a bere fino a 8-9 tazzine al giorno, e questo indubbiamente è la prima cosa da limitare nel momento in cui la persona dice ho acidità di stomaco. Roberto, quindi, quante tazzine beveva lei? Ma in genere non più di 3, però abusavo con i cappuccini che li contengono comunque, a volte certo, anche 2-3, quindi questo raggravava un po' il tutto. E come le è venuta questa intuizione? Ma semplicemente perché ora io ho un'età, diciamo, ultra cinquantenne, per un controllo ho trovato la pressione leggermente più alta, sì, e per un periodo ne ho fatte a meno, e quindi occasionalmente ho scoperto che senza quello andava tutto bene. Da cosa nasce cosa? Grazie Roberto per averci chiamato, buona giornata. E poi non c'è, c'è da ricordare che il caffè richiama la sigaretta, quindi anche il fumo può essere un elemento veramente nocivo per l'acidità. Abbiamo parlato di tabacco e parliamo anche di bacco. E bacco... bacco soprattutto vino bianco. Dipende dal tipo di uva, il vino bianco può dare molto fastidio a chi soffre di reflusso. Venere con lo stomaco non c'entra nulla. No. Porca miseria, che cavolo fai? Ti devi un po' disalterare. Il mio capo mi fa nero se facciamo tardi, quindi per favore. Noi procederemo quando tu sarai centrato. Ma io sono centrato, centrato, centratissimo. Su dai che c'è una fila di un chilometro, muoviamoci, palzoide. Sì, hai ragione, sei perfetta. Io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. Ho detto con il tuorlo poco cotto. Dottoressa Salvioli, a volte inavvertitamente lo irritiamo. Ci sono delle abitudini che a noi piacciono, ma che lui, il nostro stomaco, non vede di buon occhio. Ad esempio, masticare chewing gum, come ci aveva raccontato. Sì, masticare chewing gum. Chewing gum contiene menta, per la maggior parte. La menta riduce la pressione dello sfintere esofageo inferiore, che è quella zona di transizione fra esofago e lo stomaco, e consente all'acido di risalire verso l'esofago. In più contiene gli additivi al posto dello zucchero, il saccariosio, che induce una fermentazione e quindi il gonfiore. Poi non c'è... bisogna ricordarsi che masticare molto si inghiottisce aria, e quest'aria crea un gonfiore sia allo stomaco che all'addome, quindi anche alla pancia. Bisogna masticare molto e lentamente per non si ricorda 33 volte. 33 volte ogni boccone, che è quasi impossibile, perché come voi dite, ma lo dicevano già le nostre nonne, la prima digestione avviene in bocca. Allora il vostro stomaco si lamenta o sta bene? Cosa fa? Brucia, duole, diventa pesante, lavora lentamente. E quando? Durante i pasti, subito dopo, nel giro di mezz'oretta, al massimo, in tempi non sospetti, di notte, come diceva la dottoressa Salvioli. Ci sono degli alimenti che lo mandano in fiamme. Roberto da Firenze ci ha raccontato che ha eliminato il caffè per altre ragioni, perché aveva trovato la pressione un po' altina, e dice: guardalo qua, il mio stomaco è rinato. E poi ci sono alcuni alimenti tipo i pomodori, ecco, in questa stagione è abbastanza critica la situazione, perché alle persone piacciono i pomodori creano acidità e peggiorano il disturbo. Ma sono così buoni. Saluto il dottor Luca Voledo, naturopata, esperto del nostro Daily Lab, che è in linea con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori di Essere Benessere. Dottora Voledo, se lo stomaco fosse una persona, che gusti avrebbe a tavola? Avrebbe dei gusti particolari che le farebbero limitare proprio molti di questi cibi di cui state parlando. Mi permetto di aggiungerne qualcuno, oltre al caffè, senz'altro sì, gli alcolici. Infatti ci sono dei cibi che possono essere benzina sul fuoco per chi soffre di problemi digestivi, di bruciore, di acidità. La dottoressa Salvioli diceva il pomodoro. Il pomodoro. Ma possibile questo pomodoro? Neanche. Allora, se lo faccio cotto, l'acidità viene o no? Crudo di più, di solito è meglio tollerato. Quindi mangiatelo se soffrite di acidità di stomaco e il pomodoro vi piace, giustamente, mangiatevelo cotto. Infatti, perdete il licopene però. Sì, però infatti cotto, se lei ben sa, si aggiunge un po' di zucchero, ma si potrebbe aggiungere anche un po' di curcuma, vero dottora Voledo? La curcuma è una delle spezie che ha una utilità antinfiammatoria, anche in questo caso va valutata, perché c'è una soglia, come dire, una dose di individualità anche nel tollerare certi cibi meglio di altri. Le spezie ad alcuni potrebbero dar fastidio, ma la curcuma ha delle proprietà antinfiammatorie. La menta, per certi versi si parlava, rilassa il cardias, quindi può essere controindicata, ma in alcuni casi contrasta alcune nausee, certi bruciori di stomaco. Altri due o tre cibi interessanti che si usano abbastanza frequentemente sono il tè, che analogamente al caffè può dar fastidio, il cacao, quindi il cioccolato in tutte le forme, e l'aglio, soprattutto si fa un sugo, pomodoro e aglio, potrebbe dare fastidio. È un infiamma. Infiamma, esatto. E invece, però adesso diciamo anche che cosa gli piace, perché sennò questo stomaco rischia di starci davvero sullo stomaco, ecco, se ci evita tutte queste cose. Per converso ci sono alcuni cibi che possono essere molto utili, al di là dei cibi leggeri che giustamente di cui parlava la dottoressa Salvioli, ci sono alcuni che hanno quasi un'utilità tra virgolette terapeutica. Uno dei più noti, assunto sotto forma di centrifugato, è il succo di cavolo. Il cavolo, anche il cavolo verza, ha una interessante... Che tra l'altro si trova, perché allora attenzione sul cavolo verza, dottora Voledo, si trova ancora il cavolo verza, vero? Siamo in stagione, perché io ho un ascoltatore che tutte le volte, appena i miei esperti pronunciano un alimento fuori stagione, mi manda dei messaggi infuocati. Dottor Voledo, sul cavolo siamo tranquilli? Beh, sì. Non è proprio la sua stagione al top, come direbbe Crozza, però c'è ancora, no? Può darsi, però tante volte invece di ricorrere, come dire, criticamente a certi farmaci che molto spesso sono indispensabili, anche una verdura che non sia perfettamente di stagione forse ha più benefici che effetti negativi. Quindi comunque, il centrifugato di cavolo. Il centrifugato di cavolo. Che è cattivo però, diciamolo. Non è buonissimo, si può temperarne il gusto con della carota o anche della mela, ma è il cavolo che ha le proprietà interessanti di cicatrizzazione, è in grado di aiutare la normalizzazione delle mucose gastriche. Si fa un bicchiere di centrifugato un quarto d'ora prima dei pasti per diversi giorni, alcune settimane, e questo aiuta moltissimo a ridurre bruciori, acidità e altri disturbi simili di stomaco. Anche perché forse passa anche un po' la fame, o no? Io nel centrifugato ci aggiungerei un po' di zenzero, cosa ne pensa? Zenzero è un'altra delle sostanze molto utili perché contrasta nausea, certe pirosi o peptica, quindi sicuramente è un... Allora, lo addolciamo, questo centrifugato di cavolo con un po' di zenzero e un po' di carota, poi vediamo. Zenzero voi provato, fresco. Zenzero che fresco, che c'è. Le radicione si toglie un po', no? La buccetta e poi si può anche grattugiare. Essere e benessere. Non è patetica protesta, ma è uno sfogo di chi ha mal di testa e soffre di gastrite. Soltanto mal di stomaco e gastrite. Gastrite è un classico, dottoressa Salvioli. Mi fai venire l'ulcera anche, si dice, no? Oppure sono stressato e mi è venuta la gastrite, perché lo stress picchia duro. Sì. E lo stress aumenta le contrazioni dello stomaco, quindi ti dà la sensazione proprio di crampo, di pugno nello stomaco, e in più aumenta l'acido. Quindi la combinazione dei due fattori è abbastanza critica. Quindi è un modo di dire: l'ulcera non viene forse a causa dello stress, ma e neanche la gastrite, ma questa sensazione di bruciore, di acidità, quando siamo particolarmente sotto stress, aumenta. Aumenta. Sulla gastrite da stress, in effetti alcune persone proprio hanno la gastrite solo esclusivamente dallo stress. E in questi casi cosa si può fare? Delle belle tecniche di rilassamento dopo aver tamponato l'acidità con dei farmaci. Quindi. Farmaci o alcuni rimedi come quelli che naturali, suggerisce anche il dottor Voledo. Dottora Voledo, a lei è ancora in linea con noi? Sì, eccomi. Tre parole e tre rimedi. Tre parole che associamo spesso al nostro stomaco. E suggerirei, le chiederei di suggerire anche tre rimedi semplici buoni, perché gli ascoltatori sul cavolo alcuni mi sottolineano che funziona benissimo, ma è che è davvero cattivo. Ma noi l'abbiamo, ecco, però il dottor Avoledo un po' ci vuole far soffrire, no? Ma no, ci mancherebbe. Parlando dello stomaco e di tre parole, di tre termini che lo possono caratterizzare, direi pesantezza, acidità e bruciore. Quando non sia ancora il caso di ricorrere ai farmaci, si possa intervenire con rimedi naturali, vediamo se ce n'è uno giusto per ognuno di questi problemi. Sì. Quando si ha pesantezza, quindi un processo digestivo un po' lento, il classico peso sullo stomaco, magari anche con sonnolenza dopo i pasti, si può usare la genziana, che rientra anche in molte preparazioni liquoristiche come aperitivo e come digestivo. In questo caso noi parliamo spesso delle compresse, che in genere sono più efficaci. Qua invece vanno bene anche le tinture madri, quelle preparazioni in qualche modo bevibili, in cui si senta il sapore della genziana, dell'erba, perché è proprio questo che attiva il nervo vago, che è il nervo che governa lo stomaco in qualche modo. E si possono prendere 40 gocce di tintura madre di genziana dopo i pasti a scopo digestivo. vivo. Non va bene per chi però soffre di bruciore di stomaco, che in questo caso può essere controindicato perché aumenta l'acidità dello stomaco. Allora, quindi la genziana solo se avete una digestione particolarmente lenta. Esatto, proprio tipica di chi ha la digestione lenta, il peso sullo stomaco. Chi soffre invece di pirosi gastrica, di bruciore, di acidità, ci sono altri rimedi, in particolare due. Uno, per una volta non parliamo solo di piante, parlo dell'argilla, che è molto utilizzata fin dai tempi proprio degli egizi, sia per uso esterno che per uso interno a scopo salutistico. Non solo è un rimineralizzante, combatte anche l'aria nella pancia, il meteorismo addominale, ma è molto indicata proprio per sfiammare, per contrastare l'acidità delle mucose gastriche. Si fa una preparazione molto semplice, si può comprare per esempio l'argilla verde, un cucchiaino di legno, meglio che quello di metallo, in un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, alla sera si mescola, si emulsiona, si ripone il tutto per la notte e la mattina, appena alzati a digiuno, si beve l'acqua che sovrasta questo deposito di argilla. Per chi soffre di acidità può anche assumere l'argilla in questo modo 2 o 3 volte al giorno per alcuni giorni e poi andare a diluire con una preparazione al giorno per alcune settimane. Dottore, quindi argilla, genziana? E l'ultimo rimedio è un rimedio che ci piace molto, abbiamo parlato spesso, che è polivalente anche perché è molto semplice, è la malva. La malva, per il nostro ascoltatore, questa si trova ancora anche in giro, no? Sempre, noi abbiamo sempre l'ascoltatore che oggi non mi scrive. Oggi non scrive. Sarà andato in vacanza. La malva, foglie e fiori, ricchissima di mucillagini, che sono questi principi attivi, sì, molto utili per sfiammare, contrastare bruciore, acidità. Anche qua è una preparazione facilissima, una tisana che si prepara da sola, un macerato a freddo. Si mette un cucchiaio di malva per tazza d'acqua a temperatura ambiente, si copre, si lascia lì, non si accende il gas, la mattina dopo la malva è pronta, dopo 8 ore di infusione, è pronta per essere assunta e si assume anche un paio di tazze al giorno per alcune settimane. Le sue proprietà antinfiammatorie locali, emollienti, lenitive dell'irritazione sono molto utili in tutte le situazioni di bruciore. Perfetto, allora ricapitolando, pesantezza genziana, giusto? Sì. Acidità argilla AA. Bruciore malva. Perfetto, ma vede che... perfetta per lo stomaco. Grazie dottor Avoledo, buona giornata. Arrivederci. Ina, buongiorno. Buongiorno da Brescia. Dottoressa. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione. Allora, io volevo parlare del mio fidanzato. Sì, il è bello. Quale è un... Allora, cosa fa? Bellissimo, fantastico. Il quale è un soggetto classico appena descritto, nel senso che lui ha moltissima acidità di notte, sempre intorno all'una, alle due, sì, e generalmente si alza e la sveglia. Si prende del bicarbonato, mi sembra. Mm. Quindi non so se questa pratica sia buona o meno. In più è un fumatore, per cui fuma, ama tantissimo il peperoncino, ama bere vino, ma soprattutto nero, però questo devo dire a tavola. Però cosa è successo? Ha fatto per un mese una dieta iperproteica, di cui non faccio il nome, ma molto nota, e tutte queste cose sono scomparse improvvisamente, per cui mi chiedevo se fosse generato da una qualche, non so, intolleranza, che so. Grazie Mina, ha fatto un identikit perfetto. Esatto, è proprio il classico, diciamo, gastritico barra reflussore. Evidentemente la dieta, eliminando dei cibi cosiddetti aciduli, come avevamo citato prima, ha portato a un giovamento e questo è molto positivo, perché la causa scatenante nel ragazzo era proprio l'alimentazione. E modificando, e quindi una dieta iperproteica potrebbe risolvere il problema del bruciore dello stomaco e dell'acidità, ma ai suoi limiti. Pericolosissimo, esatto. Ecco. La dieta iperproteica, quella che ha citato, che conosciamo tutti, è limitata nel tempo, serve per avere un drastico calo ponderale, però dopo non è assolutamente consigliabile, perché è troppo sbilanciata. Secondo me, una volta terminata questa dieta, questo ragazzo dovrebbe andare da un nutrizionista e farsi consigliare esattamente cosa limitare, soprattutto durante il pasto serale, perché se non vado errato il problema ce l'aveva soprattutto di notte. E poi c'è il fumo. Il fumo, il fumo. Il fumo, Mina, lo aiuti a smettere. Intanto grazie per averci chiamato, andiamo a Giorgia. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a lei, sono contenta di sentirla, mi dica. Anch'io molto. Senta, le volevo chiedere un'informazione alla dottoressa. Dunque, io soffro di base di gastrite. Però è un paio di mesi in realtà che non ho sempre molta acidità, ho sempre molta pesantezza al petto e ho spesso anche mal di gola, ho sempre questo rossore alla gola. Ho fatto una cura, sto facendo tuttora una cura con un inibitore di pompa e altro addirittura mi ha dato degli alcalinizzanti da prendere, che sono magnesio, zinc. Però vedo che non le funziona. Perché sta migliorando? Sta peggiorando. Dottoressa Salvioli, allora, che cosa si fa? Sono tante le persone che mi scrivono, sì. Mi sono curato, ho seguito le indicazioni del medico e è andata peggio. Sì. Come mai? Allora, c'è da dire, punto numero uno di questa stagione, ai cambi di stagione, noi abbiamo un'estate molto ritardata quest'anno, per cui classico cambio di stagione, la primavera che era attorno a marzo, maggio, adesso è tutto spostato in avanti. Per cui recrudescenza, quindi ripresentarsi dei sintomi in questa stagione e quindi ci sta che le persone stiano peggio, non funzionano i farmaci, bisogna capire quale farmaco prende, poi l'orario di assunzione, quei farmaci che ha citato, bisognerebbe prenderli a digiuno una ventina o 30 minuti prima dell'assunzione del pasto. Bisognerebbe seguire anche una dieta appropriata, e ne abbiamo già parlato. Certo. Se tutte queste cose non risolvono il problema, bisogna fare degli esami approfonditi. Che si chiamano? Sono molto, ho la gastroscopia, però oppure non basta perché bisogna fare degli esami proprio un po' invasivi con un piccolo tubicino che va nell'esofago per vedere del perché non funzionano determinati farmaci. A un dopo sole, per pietà. È là! Oh, no! Sì, è là! No! Oh. Oibu. Ma cosa ho fatto? Mi sono addormentato al sole. Metta quello. Questo? Sì. Lo bevo? No, lo spalmi. Lo spalmo. Ne metta un po'. Sì. Vedrà che si sentirà meglio. Bene. Perché oggi il sole ha fatto capolino. E mi ha sorpreso. A tradimento è stato. Ad andare in fiamme non è solo il nostro stomaco, anche la pelle può bruciare, specie se si è abbandonata generosamente ai baci del sole. Buongiorno al professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Professore, sì, buongiorno. In effetti sì, d'estate col sole il pH della nostra pelle tende a diventare più acido. Questa è una delle ragioni per cui, alterandosi l'equilibrio del film lipidico superficiale, cioè quello strato di sebo, no, e di acqua che abbiamo sulla pelle, la pelle tende a screpolarsi con più facilità e di conseguenza i capillari si irritano, la pelle si arrossa e viene il classico eritema, per cui spesso l'eritema è legato ad un'acidità eccessiva della pelle legata a una esposizione al sole scriteriata o anche se ci surriscaldiamo molto. Ma sa che il sole bacia i belli, noi essendo belli cediamo un po', che dobbiamo fare? Ma lei ci può insegnare? C'è sempre un prezzo da pagare. Vero? È così, però, noi belli siamo così. Dei rimedi ci sono, abbiamo in natura l'amido che è molto efficace per riequilibrare il pH della nostra pelle e quindi per eliminare un po' quell'acidità eccessiva. Se non abbiamo a disposizione dell'amido in polvere da sciogliere nell'acqua e fare degli impacchi, può essere molto utile anche il pane, magari il pane raffermo da qualche giorno, raffermo in casa, farlo rammollire nell'acqua, avvolgerlo in un fazzoletto e poi fare tamponare la pelle, no? Con questa acqua e amido del pane che trasuda attraverso il cotone, può essere estremamente utile ed importante. Però per concludere, l'acidità non è solamente